Capitolo 11. Venezia, 10 luglio 1545. Il profumo di Donna Demetra è un effluvio dolce e sottile, essenza di mughetto, più o meno intensa, che fornisce indizi sul suo passaggio o la sua presenza nelle camere del palazzo. Seduta allo scrittoio, nell'anticamera della sua stanza, con l'aiuto di carta e penna, suddivide i guadagni del mese. Entrate, Don Ludovico, accomodatevi qui accanto. Gli occhi grigio-verdi, che invitano a parlare, e i pochi capelli bianchi, volutamente sfuggiti alla tintura, sono i soli segni che 40 anni di vita abbiano lasciato sul volto di questa donna di Corfù, figlia di un capitano veneziano e di una greca. Il suo corpo emana un'energia ancora intatta. «Volevate parlarmi, donna Demetra?» «Infatti», risponde, con un sorriso esperto, «ma sedete, vi prego». I ricordi remoti dell'università mi aiutano a comprendere il suo tedesco impastato di latino e greco, un miscuglio vario che sembra essere la lingua universale a cui i mercanti di questa città si sono adattati. L'idioma degli affari, delle spezie, dei tessuti e delle porcellane. Il chiarore di quegli occhi ha un che di magico, di antico e affascinante. Vi brilla l'intelligenza di una donna esperta dei fatti del mondo, quel mondo multiforme e variopinto che ha fatto di Venezia una tappa obbligata. Vi confesso, Don Ludovico, un certo imbarazzo. La frase è studiata, falsa nel contenuto e niente affatto nel tono. Preannuncia la spontaneità che mi aspetto. Donna Demetra cinge le mani in grembo. Voi siete tedesco e so bene che dalle vostre parti non è usuale, per non dire assai raro, che una donna parli d'affari a un uomo. La rassicuro. Se è questo il motivo del vostro imbarazzo, allora non temete. Gli accadimenti della vita mi hanno insegnato che la genuina praticità delle donne è di gran lunga preferibile alla gretta materialità degli uomini. Il sorriso si allarga. Credevo di farvi un favore nel mostrarmi ingenua. Di solito gli uomini traggono un piacere speciale dall'idea di poter comprendere la mente di una donna, di poter prendersene cura dall'alto della loro esperienza. Per trattare con voi altri da pari a pari è necessario fingere spaesamento e inferiorità, altrimenti il rischio è quello di recare offesa a un orgoglio facilmente suscettibile. Annuisco, lasciando scivolare lo sguardo sul collo olivastro e l'ampia scollatura. L'orgoglio lasciamolo agli inetti allora e per una volta eccediamo alla regola. È quello che voleva sentirsi dire. Vorrei mettermi in affari con voi e fare di questo posto il più esclusivo e il più richiesto luogo d'amore di tutta Venezia. Ho alcune idee in proposito e voi avete i soldi per realizzarle. Mi aggiusto sulla sedia e appoggio la guancia su una mano. Proposta singolare, donna Demetra, l'ospite che diventa tenutario. Alza una mano per chiedermi di lasciarla continuare. Non c'è da lamentarsi per come vanno le cose adesso, ma l'esperienza mi dice che qualche modifica potrebbe incrementare di gran lunga il volume degli affari della casa. Contengo la sorpresa divertito. Non v'è femmina, tra l'odere e il reno, che parlerebbe con tanta naturalezza di argomenti del genere. Adesso le cose funzionano così. Gli uomini adocchiano le ragazze sulla strada, oppure arrivano qui, attraversano il corridoio tra i divani delle ragazze, si siedono accanto a quella che più gradiscono, la invitano e quando decidono di andarsene, pagano la camera e il servizio. Cosa piace agli uomini in questo meccanismo? Aspetta una risposta. Riordino in fretta le idee per salvare la faccia. Molte cose, direi, a giudicare da come si affezionano. In primo luogo, la naturalezza di tutto il rituale. Giusto, come dico sempre alle ragazze, non date l'impressione di essere al lavoro. Quando vi invitano, alzatevi come se vi avessero chiesto un ballo. Dunque si tratterebbe di rendere la cosa ancora più naturale. Il cliente dovrebbe avere l'impressione di aver sedotto la sua preferita. Al pian terreno dovrebbe esserci una taverna di gran lusso, con mescita di vini pregiati e cucina, un posto dove un ricco mercante possa desiderare di venire anche solo per mangiare. Piano, piano, donna Demetra, sento già che mi gira la testa. Sorride allo scherzo e riprende. Pensatela così. A una certa ora le ragazze entrano in sala. Qualcuna si siede, qualcuna serve i tavoli, qualcuna va al banco dei vini. I clienti più disinvolti le invitano a sedersi al loro tavolo, quelli più timidi chiedono a un cameriere di fare da intermediario. Donna Demetra si alza lentamente. E sono sicuro che il modo in cui lo fa è studiato apposta per darmi una nuova e fugace prospettiva della sua scollatura. Si mette dietro di me e comincia a massaggiarmi il collo con la punta delle dita. Un brivido mi fa scappare un sospiro. Io credo, Don Ludovico, che conquistare una donna a cena, anche solo per finta, sia molto più piacevole che farlo sul divano di un corridoio. O sbaglio? Giustissimo. La seconda proposta è di allargare il giro delle ragazze. Una quindicina fisse e un'altra quindicina che viene quando vuole, quando ha bisogno di soldi, quando se la sente. Più ricambio ci sarà e più i clienti affezionati avranno l'illusione di non avere a che fare con donne di mestiere e avranno l'opportunità di portare a letto qui quella ragazza che fuori non avrebbero il coraggio di avvicinare. Il massaggio mi scioglie la tensione lungo il collo e la schiena. Sono le mani più abili che mi abbiano mai toccato. Perché pensate che potrei essere interessato a un posto come questo? I suoi capelli mi sfiorano l'orecchio. Se uno straniero viene a Venezia è per fare affari o per nascondersi. Al mercante propongo un commercio redditizio, al fuggiasco un'attività che garantisce discrezione e nessuna ingerenza da parte delle autorità. Annuisco. Io sono stato l'uno e l'altro, ma vi dirò che oggi quello che mi interessa di più sono le informazioni. La risata fresca di una ragazzina. Signore mio, lasciate allora che l'esperienza parli per me. A letto gli uomini rivelano cose che non si lascerebbero sfuggire nemmeno nel confessionale. Conosco più io dello schiaffare del doge che i suoi stessi consiglieri. Questa donna continua a sbalordirmi. Sapete, donna Demetra, credo che farò la vostra fortuna. In men che non si dica, sarete la vittoria colonna della Repubblica di Venezia. Mi lascia scivolare le braccia sul petto e accosta la bocca al mio orecchio. Con la differenza, Don Ludovico, che Vittoria Colonna fa il mio stesso lavoro senza volerlo ammettere. Si dà aria di gran seduttrice e finge di non sapere quello che gli artisti come Michelangelo si aspettano da lei. Allora diciamo soltanto che diventerete ricca. E anche voi. E forse mi racconterete qualcosa di più di quello che siete venuto a fare qui. Ma vi consiglio di affrettarvi. Se volete avere il piacere di raccontare a una donna quello che ancora il suo intuito non le ha suggerito.